2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. Di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 22 giugno 2013. Benvenuti o bentornati a 2024. Questo è il programma di Radio 24 dedicato alla tecnologia. Ogni settimana ci chiediamo come la tecnologia ci cambia la vita. Oggi in regia c'è Roberto Scaltritti, che salutiamo. In regia ci aiuta anche Benedetta Acri e al centralino c'è Nicole, il nostro numero verde 800240024 per chiamarci in diretta per le vostre domande, ma anche per le vostre considerazioni, oppure potete scegliere di utilizzare il telefonino per gli SMS 349-238-6666, anche la nostra pagina Facebook, cercatela scrivendo 2024, o anche il nostro account Twitter. Parliamo e iniziamo questa puntata parlando di software open source. Poi nel corso della puntata dedicheremo un approfondimento anche al Wi-Fi in ambito pubblico, cercando di capire quali sono le novità che sono arrivate assieme all'annunciato decreto. Una settimana fa veniva annunciata questa, che per alcuni è una seconda liberalizzazione, forse la volta buona, chi lo sa. Ma dicevo, adesso parliamo di software open source. Allora partiamo da una scelta che è stata fatta dalla provincia autonoma di Bolzano, che passerà migliaia di postazioni di lavoro a software open source e gratuito. Non sempre l'open source è gratuito, in lingua inglese il free software comprende due concetti: quello dell'apertura del software, che può essere cambiato, personalizzato, ma che può anche essere gratuito. Non sempre lo è. In questo caso stiamo parlando di un software che è sia open source ma è anche gratuito. Allora, ne parliamo con Patrick Onewine, che è responsabile dell'area Free Software e Open Technologies all'interno del TIS, che è il Techno Innovation Park, quindi un parco scientifico tecnologico a Bolzano. Onewine, benvenuto a 2024. Grazie mille. Lei è responsabile di quest'area all'interno di un parco scientifico tecnologico che in questo caso ha aiutato la provincia di Bolzano a fare questa scelta. Beh, innanzitutto le chiedo qual è la novità e quindi che cosa passerà all'interno delle, ho letto, 7.000 postazioni di lavoro della provincia autonoma di Bolzano a software open source. Ci spieghi un po' il contesto generale. Sì, il contesto è: noi in Alto Adige da parecchi anni stiamo facendo diversi progetti nel campo del software libero e dell'open source. Il 20 è stato presa una decisione molto importante, cioè di unire i progetti che sono stati, o l'esperienza fatta all'interno dell'amministrazione provinciale, che ha appunto quasi 7.000 postazioni, anche unendoli anche con altre realtà, sempre enti pubblici, cioè anche la sanità, e aggiungiamo anche il consorzio dei comuni che gestisce l'IT di tutti i comuni dell'Alto Adige, e arriviamo ad un totale di quasi 13.000 posti macchina. E questi enti si sono riuniti e hanno preso la decisione molto forte di fare adesso un progetto di 3 anni e migrare tutta la infrastruttura informatica, tutta la soluzione Office verso LibreOffice. Quindi LibreOffice diventa la piattaforma da ufficio, quindi di produttività, fogli di calcolo, editor di testi, eccetera, eccetera. Quindi stiamo parlando di questo ambito, non di altre applicazioni, che ne so, il sistema per la gestione dell'anagrafe, non stiamo parlando di queste cose. No, questo progetto si concentra sulla suite Office e il grande valore aggiunto è che tutti questi enti insieme vanno verso LibreOffice e vanno verso un formato dei file aperti che è Open Document Format, che è molto importante anche per una questione di interoperabilità. Si deve anche aggiungere che da noi le scuole statali di lingua italiana sono anche già passati non solo a LibreOffice, ma completamente a software libero nella scuola. Hanno nel 2005 migrato tutte le scuole verso un sistema libero. Adesso aggiungiamo anche la provincia e la sanità, il consorzio dei comuni nel lato Office. Questa è una scelta di carattere puramente tecnologico o anche in parte politico? Perché naturalmente scegliendo l'open source si sceglie un prodotto che non costa nulla in termini di licenze, che affida lo sviluppo ad una comunità che è sparsa in tutto il mondo, ma naturalmente prevede che poi ci sia un po' di sviluppo e soprattutto di supporto a livello locale, quindi anche proprio una filosofia diversa. Quindi stiamo parlando di una scelta puramente tecnologica o c'è dell'altro? C'è più che solo una decisione tecnologica, infatti come ha detto lei si sposta l'investimento da licenze d'uso, che poi sappiamo che circa l'80% della spesa fatta in prodotti proprietari lascia addirittura l'Europa, invece di far uscire i soldi dall'Europa e dalla provincia, abbiamo deciso di investire nelle teste e di dire creiamo questo indotto attraverso una tecnologia aperta che può essere poi sviluppata anche sul territorio. Esiste comunque sia un risparmio, oppure alla fine, fatti tutti i conti, diciamo che una parte dei soldi che viene risparmiata dalle licenze la si deve spendere per il supporto, sì, facendo lavorare manovalanza, tra virgolette la uso questa parola, intelligenza locale, ma pur sempre che deve essere pagata? All'inizio non ci sarà un grande risparmio. Noi abbiamo fatto un calcolo di un risparmio di 500-600 mila euro all'anno. Ovviamente il progetto prevede anche un forte investimento sia organizzativo ma anche e soprattutto di formazione del personale, la creazione del contesto giusto per poi poter in futuro avere un indotto sul territorio, cioè il risparmio arriverà poi dopo, fra qualche anno. Certo. Senta, secondo lei in zone dove non esiste questo ecosistema, perché lei stesso ci ha detto che voi state attrezzandovi per creare anche una cultura, una serie di conoscenze a livello locale, dove non esistono queste competenze, è più difficile utilizzare open software o comunque nel caso specifico LibreOffice? Ma LibreOffice e Microsoft Office per le funzionalità comuni che un utente medio utilizza non sono molto diverse, è più una questione anche di voler cambiare, spesso è un change management, come funzionalità le differenze non sono grandi e non sono neanche così visibili. Ovvio che le ultime versioni della casa Microsoft con la nuova interfaccia Ribbon Interface poi hanno una user experience molto diversa, però questo problema noi non ce l'abbiamo ancora perché la provincia di Bolzano ha le licenze attualmente di Office XP e Office 2003 e non ha ancora l'interfaccia nuova, per cui il cambiamento nel nostro caso non è neanche altissimo, grandissimo. Chiarissimo. Senta, naturalmente i concorrenti principali in questo ambito sono Microsoft Office e Google Apps con tutta la serie di prodotti che ci sono all'interno della soluzione ufficio. In questo caso queste aziende si stanno spostando negli ultimi tempi sul cloud e quindi erogano il servizio completamente in cloud, se uno lo vuole, pagando un abbonamento mensile. Questo io non so dirle dal punto di vista tecnologico, certo ci sono una serie di vantaggi che possono essere elencati, però non so, confrontandola con una soluzione come quella che voi avete adottato, se esistono vantaggi o svantaggi. La questione cloud diventa sicuramente molto importante anche da noi, porta, come ha detto lei, dei vantaggi e anche delle criticità, come la disponibilità della banda quando serve e non tutto è sempre coperto al 100%, anche se noi in in Alto Adige stiamo investendo molto su questo lato di infrastruttura. Seconda criticità è la domanda se la cloud per una pubblica amministrazione è utilizzabile, cioè una cloud che poi porta i dati in America. Abbiamo sicuramente sentito negli ultimi tempi la problematica del progetto Prism e attualmente noi facciamo un'introduzione di LibreOffice e valutiamo anche opzioni cloud, anche lo stesso progetto LibreOffice stanno sviluppando una versione cloud del prodotto, del progetto, che ha il vantaggio che può essere installato in una cloud privata, cioè la provincia potrebbe sui propri server installare LibreOffice in modalità cloud. Interessante. Io sono un grande sostenitore della replicabilità nell'ambito della pubblica amministrazione delle buone pratiche. Se una pubblica amministrazione di un'altra regione italiana venisse da voi e dicesse: mi aiutate oppure mi fornite in outsourcing questo tipo di servizio, voi lo potete fare? No, noi siamo sicuramente molto interessati a creare rete e a mettere a disposizione la nostra esperienza, anche perché allo stesso modo noi riceviamo esperienze da altri, in Italia sicuramente Libre Umbria è un progetto col quale noi collaboriamo molto, la regione dell'Umbria ha anche introdotto LibreOffice e anche Monaco in Germania, che ha non solo introdotto LibreOffice ma anche migrato postazioni macchine verso un ambiente completo di software libero analogo a quello che hanno fatto le scuole da noi. Onewein, rimanga con noi, adesso noi ci fermiamo per un minuto, ci sono le notizie che arrivano da strade e autostrade. Vi ricordo che potete chiamarci in diretta al nostro numero verde 800240024, potete comunicare con noi anche tramite Twitter, che per alcuni ascoltatori ha sostituito l'SMS, e quindi ci trovate tramite l'account di 2024 oppure cercate nel motore di ricerca all'interno di Twitter Enrico Pagliarini, chiocciolina e underscore Pagliarini. Comunque molto facile, molto semplice trovare tutte le persone attraverso questo motore di ricerca. Riprendiamo tra circa un minuto. 2024. Riprendiamo questa puntata. Vi avviso che oggi non parleremo, così come annunciato, abbiamo fatto alcuni cambiamenti delle ultime ore, non parleremo del salone aeronautico di Le Bourget. Allora, sappiate che si conclude domani, è iniziato lunedì e si conclude domani, tra l'altro oggi e domani sono due giornate aperte al pubblico, ma bisogna stare a Parigi o bisogna andare a Parigi, il più grande salone dell'Europa continentale dedicato al settore aeronautico, aerospaziale, della difesa. Si vedono effettivamente cose in esposizione o anche volare aeroplani molto belli che difficilmente uno può vedere in altre occasioni. Chi è che può vedere un Eurofighter o un Rafale, un caccia francese o un Sukhoi, il nuovo aereo da guerra russo, volare nel cielo? Insomma, una cosa sicuramente molto difficile. Oppure si vedono in questi giorni volare l'A380, il 787 della Boeing, insomma cose che difficilmente si riescono a vedere. Allora, io sono stato in questi giorni, ho fatto alcune interviste con alcune persone che si occupano del settore in Italia. Abbiamo aziende eccellenti a livello internazionale nel settore degli elicotteri, degli aeroplani, del settore dei motori per gli aerei. Allora ho fatto un po' di interviste che avevo messo in scaletta per questa puntata, ma visto che è stato pubblicato ieri sera il decreto che contiene alcune novità relative al wifi in ambito pubblico, beh, ho deciso che forse è meglio far slittare quelle interviste alla prossima settimana e occuparci di wifi. Perché? Per capire se ci sono e quali novità ci sono. No, ne parleremo più tardi, sarà con noi l'avvocato Guido Scorza, quindi vi invito anche a chiamarci per le vostre domande, i vostri dubbi, le vostre considerazioni al nostro numero verde 800240024. Concludiamo con Patrick Onewein. Stiamo parlando di questo progetto lanciato in Alto Adige che migrerà alla soluzione LibreOffice, che è un pacchetto per la produttività da ufficio, 13.000 postazioni di lavoro. Allora, Onewine, ricordiamo che Onewine è responsabile dell'area Free Software e Open Technologies all'interno del TIS di Bolzano. Un nostro ascoltatore, ed è una domanda effettivamente che può sovvenire, su quei computer c'è Linux o invece c'è Windows? Sì, la provincia ha computer Windows, cioè il sistema operativo delle postazioni macchine non viene migrato, rimane Windows. Quindi non passate a Linux? No, in questo campo no. Nelle scuole c'è Linux e ci sono realtà Linux anche da noi, ma questo progetto, le 7.000 macchine, cioè 13.000 macchine in totale, sono sistemi client Windows. Bene, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro, a presto. Grazie mille a lei. Beh, sicuramente un progetto interessante, poi caso per caso vanno fatte molte valutazioni, perché ci sono a volte per alcune funzionalità, pensiamo alla mobilità molto spinta degli ultimi tempi, oppure ad alcune cose che uno deve fare sul posto di lavoro, per cui altre soluzioni sono più convenienti. Vanno fatte le valutazioni caso per caso e sicuramente questa è un'esperienza estremamente interessante. Abbiamo come sempre le nostre Digital News. Digital News. Iniziamo da una notizia che riguarda il mondo della stampa tridimensionale. Allora, conferma che il mercato sta cominciando a decollare. L'americana Stratasys, che è una delle più importanti aziende nel settore della stampa 3D e della prototipazione rapida, ha acquistato MakerBot, una società piuttosto nota nell'ambiente che produce stampanti 3D. Valore dell'operazione 403 milioni di dollari in azioni e altri 200 sulla base dei risultati. Un tribunale di Tokyo ha dato ragione alla Apple dicendo che Samsung ha violato un brevetto sul caratteristico movimento delle applicazioni, che quando si fanno scorrere sul display e arrivano a fine corsa rimbalzano. Chi utilizza sistemi Apple è abbastanza abituato con questo movimento, si chiama bounce back questo movimento. Allora, pensate fin dove si spingono gli avvocati, perché gli avvocati di Apple dicevano e ritenevano che questo fosse un brevetto di Apple. Questo tribunale giapponese ha dato ragione, ma un'altra corte americana aveva detto che solo una parte di questa soluzione software poteva essere brevettata. Comunque la battaglia globale tra Apple e Samsung nei tribunali continua. Allora, i numeri di telefono e le email di 6 milioni di utenti di Facebook sono stati messi in chiaro lo scorso anno e solo pochi giorni fa il social network ha sistemato la falla. Facebook ha ammesso di aver avuto un problema e che gli utenti che hanno scaricato i dati di contatto della lista dei loro amici hanno avuto a disposizione dati che non avrebbero dovuto avere. Sempre da Facebook arriva un'altra notizia. Instagram, che Facebook ha comprato lo scorso anno, ha lanciato ora la possibilità di girare brevi video da 15 secondi che si possono modificare con uno dei 13 filtri costruiti appositamente per questi video. Si tratta della risposta al corrispondente servizio di Twitter che si chiama Vine. L'Associazione Italiana Editori ha pubblicato una serie di dati sulla diffusione degli ebook, i libri digitali, quindi il software, il contenuto, e non stiamo parlando dei lettori, stiamo parlando proprio dei libri veri e propri, quelli da leggere. Un mercato che naturalmente cresce, oggi sono poco più di 60.000 i titoli digitali, l'8,3% di quelli in commercio prodotti da circa 2.000 editori. A dicembre gli ebook rappresentavano l'1,8% del mercato del libro, quindi ancora pochissimo, in crescita dell'89% sull'anno precedente, e comunque oggi il 44% delle novità italiane sono pubblicate anche in versione digitale. E mi verrebbe da dire solo il 44%, dovrebbe essere un po' di più, ma molti editori ancora non hanno capito dove tira il vento, anche se certo la cosa non è semplicissima, ma lì si deve andare e quella è la direzione. C'è un'altra notizia della settimana che merita un approfondimento ulteriore. Telecom Italia ha annunciato altre 22 città, e quindi fanno per adesso 25 su un totale annunciato di 125, che sono raggiunte dai nuovi servizi misti in fibra ottica e rame. Si tratta del sistema col quale si raggiunge l'armadio di distribuzione stradale con la fibra ottica, si chiama proprio Fiber to the Cabinet, FTTC, proprio per questo motivo, a differenza dell'FTTH, cioè Fiber to the Home, che arriva direttamente nell'appartamento. sicuramente sistema molto più lungimirante, che guarda al futuro, ma quello della fibra direttamente nell'appartamento, ma che costa di più. Allora, questo tipo di collegamento che sta utilizzando Telecom e anche Fastweb permette di portare nelle case 30 megabits al secondo in download e 3 in upload. Solo per la città di Milano, visto che c'è invece concorrenza sul cosiddetto fiber to the home, quindi fibra fino all'appartamento, perché già Fastweb lo sta facendo anche Vodafone e lo comincerà a fare anche Wind, solo nel caso della città di Milano Telecom ha annunciato un servizio fiber to the home con 100 megabits in download e 10 in upload. ...2024 continua, tra poco parleremo di privacy, o come dicono alcuni, di privacy, perché l'autorità francese che si occupa di questa materia ha avvisato il motore di ricerca dicendo: se entro 3 mesi non vi mettete in regola con le leggi locali, vi daremo una multa. Naturalmente Google sostiene di essere già in regola. Ne parleremo tra poco con il garante italiano, perché anche in Italia l'autorità che si occupa di privacy ha disposto una indagine su Google. Parleremo anche di Wi-Fi in ambito pubblico, con alcune novità che sono arrivate, sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Prima però parliamo di tablet e di computer portatili, perché ci sono alcune novità. La prossima settimana Microsoft presenterà la versione aggiornata, l'aggiornamento il più importante di Windows 8.1, e quindi per quanto riguarda il mercato di tablet con questo sistema operativo e anche di notebook, di computer portatili, ci saranno sicuramente delle novità. Ma nel frattempo Samsung ha presentato una serie di novità legate a questo settore con il sistema operativo Windows, e la prima notizia interessante, giusto per capire alcuni trend, è che Samsung ha completamente snobbato Windows RT, il sistema operativo che Microsoft monta sul Surface, questo tablet con sistema operativo Windows RT, che è pensato, progettato per i terminali con processore ARM. Sapete che ARM è l'architettura di processori montati sugli smartphone e sui tablet, sulla maggior parte degli smartphone e sui tablet, ma negli ultimi tempi proprio su tablet stanno arrivando prodotti anche con processore Intel, che quindi possono montare Windows classico Windows. Allora, per Samsung la versione RT, quindi Windows RT, non fornisce l'esperienza d'uso tipica di Windows, quindi l'azienda ha deciso di presentare solo prodotti con Windows 8, solo su piattaforma Intel x86. Tutta la serie Windows 8 di Samsung si chiama Ative, e il più interessante è un Ative che si chiama Q, l'Ative Q come quadro. Perché? Allora, perché monta sulla stessa macchina sia Windows 8 che Android. Quindi una scelta sicuramente interessante. Basta schiacciare un tasto e si passa molto velocemente da Windows ad Android. Ed è una scelta interessante perché dimostra quello che molti esperti dicono da tempo, cioè che sia che si usi un sistema operativo come iOS della Apple, sia che si utilizzi Android e quindi si abbia uno smartphone o un tablet, ma soprattutto un tablet con questi sistemi operativi, che sia appunto un Android o un iPad, la verità è che il classico computer è comunque necessario. Prima o poi ci scontriamo con qualcosa che rende necessario il computer, quindi non è vero che un tablet sostituisce completamente il computer. Ecco perché Samsung ha deciso di fare un computer portatile che ha il classico Windows, quindi è un computer, ma mette a bordo anche Android. Quindi sostanzialmente si dice: per alcune cose è perfetto Android con le sue applicazioni, per la mobilità eccetera eccetera, anche per l'uso parsimonioso della batteria. Però, visto che il computer serve con il classico Windows, mettiamo anche Windows. Diciamo un'ulteriore conferma che non c'è ancora un sistema operativo per tutto. Poi anche in questo caso vale come nella politica e nel calcio, ci sono varie correnti di pensiero, però questa sicuramente è una scelta interessante. Altri produttori invece offrono tranquillamente tablet con RT o anche i cosiddetti convertibili. Ci sono moltissimi produttori che presentano il classico Windows 8. Ci sono alcuni produttori, c'è un produttore che sta sondando il terreno sulla possibilità di avere solo Android come sistema operativo, ed è ad esempio il caso di HP, che ha lanciato un notebook economico meno di 500 euro che arriverà nelle prossime settimane anche in Italia. Si tratta dello Slatebook X2, che secondo HP è un po' tutto, perché è 100% tablet, dicono loro, 100% notebook, 100% Android. Vedremo come andrà il mercato. Certo è che le cose si stanno complicando moltissimo. Oggi comprare un computer portatile, oppure scegliere tra un computer portatile o l'alternativa di un tablet, non è facile, perché già nel mondo dei tablet ci sono varie scelte. Compro un iPad con sistema operativo Apple, compro un Android e tutta l'offerta di tablet Android, oppure compro un tablet con Windows RT, oppure compro un tablet con Windows classico. Ad esempio, Microsoft ha da poco lanciato sul mercato il Surface Pro, che è un tablet basato su Windows 8, quindi un tablet sì, ma che di fatto è come un computer portatile. Ha molte delle caratteristiche del computer portatile, come ci ha spiegato Claudia Bonatti, che è il direttore della divisione Windows di Microsoft Italia. Surface Pro è una macchina Intel Core i5, quindi ha le caratteristiche tecniche di processore dei più comuni notebook di fascia medio-alta che noi utilizziamo. Come sistema operativo monta Windows 8 Professional, che è la versione di Windows che noi suggeriamo agli utenti professionali e alle aziende. Quindi potremmo dire che è di fatto un computer portatile che ha la forma di un tablet. Certo, è un computer portatile nascosto nella forma di un tablet, assolutamente sì. Mettendo insieme quindi tutte le funzionalità di produttività che noi ci aspettiamo da un portatile, quindi avere l'Office piuttosto che qualsiasi altro software io voglia utilizzare normalmente sul mio PC, software per produttività personale, Photoshop piuttosto che altri prodotti di questo genere, o che la mia azienda utilizzi per il suo normale business. A questo punto uno potrebbe domandarsi, per chi avete pensato invece il Surface tradizionale, cioè il Surface RT? Il Surface RT si posiziona per chi ha bisogno di funzionalità legate alla produttività più limitate. Noi abbiamo Office anche su Surface RT, non abbiamo però la possibilità sulla piattaforma RT, vista la sua natura, di installare altro software di desktop che venga normalmente utilizzato, per esempio adesso su Windows 7, cosa invece che è possibile su Surface Pro ovviamente. E quindi diciamo che RT si posiziona su un'utenza più consumer, che ha necessità di produttività magari un pochino più limitate, ma che voglia avere un device, un tablet molto leggero con una durata della batteria molto lunga. Sull'RT tuttavia esiste una versione di Office, che sì, è un bel vantaggio, diciamo. È un bellissimo cosa vantaggio che non c'è sul Pro. Sul Pro è possibile installarlo, però quindi che il vantaggio è soprattutto dal punto di vista economico, nel senso che C'è di default, cioè non c'è preinstallato. Non c'è preinstallato, sì, ovviamente, quindi da un punto di vista economico non ho questo tipo di vantaggio. Esistono tutta una serie di offerte sul mercato ovviamente per l'acquisto di Office insieme a un PC, quindi da quel punto di vista ci possono essere degli aspetti positivi, però è vero, sì, non è preinstallato. Voi avete annunciato che ci sarà Outlook, che era forse una mancanza all'interno di RT, di Surface RT, perché è vero che c'è questa versione di Office, ma mancava Outlook, che è parte di Office. Sì, la versione di Office che abbiamo ancora ad oggi su Windows RT è l'Office Home and Student, che tradizionalmente appunto non include Outlook. Siccome Windows RT è poi stato apprezzato anche da utenti professionali o aziende, la possibilità di avere Outlook era diventata un fattore molto importante. Quindi stiamo lavorando appunto allo sviluppo di un client di Outlook che si è sia disponibile e installabile anche su Windows RT. E arriverà quando? Non abbiamo ancora le date di lancio, però vi posso dire che a fine giugno, il 26 di giugno, sarà resa disponibile la preview beta di Windows 8.1 e Windows RT, quindi già dal 20 a fine mese potremo vedere un po' di novità relativi a questi prodotti. E quindi poi vedremo il 26 giugno quali saranno le novità presentate all'interno di Windows 8.1, sicuramente, ma questa non dovrebbe essere la novità più importante, anche perché sennò ci sarebbe da ridere, sicuramente però dovrebbe riapparire il tasto Start quando uno utilizza il sistema operativo Windows nella classica versione, nella classica configurazione desktop, mentre invece sapete che anche Windows 8 ha adottato la possibilità di utilizzare, quindi di vedere l'organizzazione del sistema operativo con le tessere modificabili e mobili che sono state lanciate e introdotte con Windows Phone. Vedremo anche se ci sarà maggiore chiarezza, perché ad esempio sicuramente Windows RT ha un po' complicato e messo un po' di confusione nel sistema. Vedremo insomma quali saranno le novità. Sicuramente sul fronte sicurezza Microsoft ha già comunicato che lancerà una sorta di gara con relativo premio a chi riesce a bucare il sistema, un buon modo per sapere dalla comunità degli sviluppatori in giro per il mondo quali sono i possibili difetti. Microsoft pagherà fino a $100,000 a chiunque rilevi tecniche di exploit innovative contro le protezioni presenti nella nuova versione di questo sistema operativo, $50,000 a chi fornisce idee difensive relative all'attacco e a eventuali altre vulnerabilità rilevate. Questo programma, questa gara, questa sorta di gara vale anche per Internet Explorer. Comunque sui siti di Microsoft ci sono tutti i dettagli e se siete in grado, io non lo sono di certo, quindi non partecipo e non vado a vedere gli ulteriori dettagli, ma se uno è in grado di andare a capire quali possono essere le vulnerabilità di un sistema operativo, beh, potrebbe guadagnarsi $100,000 o $50,000, il che non è sicuramente un brutto affare. Se vincete questi soldi, beh, magari offriteci un pranzo, una cena o anche solo un caffè o un gelato, una passeggiata e una chiacchiera. Questo è 2024, lo riprendiamo tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata, la puntata del 22 giugno, il nostro numero verde per chiamarci, soprattutto immagino che molte delle domande saranno, molte delle considerazioni relative al Wi-Fi in ambito pubblico. Di questo ci occuperemo tra poco, perché è stato pubblicato da poche ore in Gazzetta Ufficiale il decreto, quindi che potrà essere poi modificato dal Parlamento, però già alcune informazioni sono contenute in quel documento. Prima però ci occupiamo di privacy, perché l'autorità che si occupa del tema in Francia sostiene che Google violi le norme francesi in materia di privacy, ha dato alla società un ultimatum, 3 mesi di tempo per mettersi in regola, se no arrivano multe. Allora, Google naturalmente sostiene di rispettare la legge europea in materia, ha sempre detto e ha ribadito anche un paio di giorni fa che sta collaborando e collaborerà sempre con le autorità, ma visto che indagini di questo genere sono in corso anche in altri paesi europei, compresa l'Italia, ne vogliamo parlare con il garante italiano, l'autorità italiana che si occupa di privacy, di dati personali. È con noi Giuseppe Busia, che è il segretario generale del garante per la protezione dei dati personali. Benvenuto a 2024. Buonasera, grazie a voi. Noi sappiamo che anche voi, assieme ad altre autorità nazionali, avete attivato una indagine per capire qualche cosa in più sui servizi che Google offre ai consumatori anche in Italia. Diciamo, molte autorità europee ritengono che alcuni di questi servizi, soprattutto l'incrocio dei dati che vengono fatti da Google, possano essere non conformi alle leggi locali. In generale, qual è la vostra preoccupazione, quindi qual è poi il motivo di questa indagine? Sì, noi insieme agli altri paesi che fanno parte di una task force che è stata creata, Francia, Gran Bretagna, Germania, Spagna, Olanda, abbiamo visto e vogliamo che ci sia chiarezza sull'utilizzo dei dati raccolti da Google. Sappiamo con certezza che Google raccoglie una molteplicità di dati e li raccoglie sotto diversi profili, li raccoglie quando naturalmente ci siamo registrati con una email, la mail di Google, quando ci siamo registrati al social network, ma li raccoglie anche perché conserva, non sappiamo però quanto e vogliamo capirlo, i dati delle nostre ricerche fatte col motore di ricerca. Se ci facciamo localizzare con le mappe di Google può conservare il dato del dove siamo, e soprattutto dall'inizio dello scorso anno, in virtù del fatto che ha unificato la privacy policy, ha informato in modo generico del fatto che tutti i dati presi da questi servizi, che sono estremamente diversi fra loro, vengono in qualche modo riuniti, incrociati fra loro. Tutto questo ci preoccupa molto, perché è chiaro che non abbiamo contezza esatta di quali sono i trattamenti effettuati. Vogliamo che ci sia chiarezza, vogliamo che le persone possano scegliere, dare il consenso o negarlo per questi trattamenti, e che possano controllare l'utilizzo dei dati esercitando i propri diritti. Cioè lei dice, ad esempio, nel caso delle mappe non si sa bene che utilizzo venga fatto del dato che noi diamo a Google, magari mentre siamo con uno smartphone a passeggio? Si sa che ci localizza, perché ci chiede: ti vuoi far localizzare? Quindi sa dove siamo, questo ragionevolmente viene utilizzato per, viene ricordato per un tempo anche lungo, e vogliamo sapere quanto, e vogliamo eventualmente intervenire per dire non più di, vogliamo che ci sia il consenso a utilizzare questo dato, che serve a farci, da un lato indicarci la strada giusta, dall'altro, lo sappiamo, a inviarci della pubblicità, ma probabilmente questo dato va a riempire una sorta di fascicolo virtuale in cui appunto è ricordato non solo che in quel momento siamo stati in un punto, ma che poi abbiamo consultato la mail, che siamo collegati a un social network, che abbiamo chiesto di avere una lista di notizie, e a seconda dei servizi che abbiamo attivato c'è anche l'agenda, per cui può sapere quali sono i nostri appuntamenti e le persone con le quali siamo in contatto, che abbiamo contattato e con le quali abbiamo avuto appuntamenti, e così via in crescendo. E poi ci sono una serie di dati nascosti pure raccolti da Google, ci sono siti terzi collegati con Google, ad esempio quando vediamo una mappa presa da Google ma riportata su un altro servizio, per esempio un negozio, una palestra che ci vuole indicare dov'è, quindi ci aiuta a trovarlo grazie a un pezzo di mappa su Google, il dato della visita a un sito terzo viene raccolto da Google, la quale sa quindi che noi profiliamo, che siamo legati e vogliamo andare o siamo almeno interessati a una palestra, e una palestra in quella zona. Tutto questo costituisce un patrimonio enorme di informazioni su ciascuno di noi, quasi superiore alla nostra stessa memoria. In certi casi possiamo immaginare che Google sa di noi più di quanto noi ricordiamo di noi stessi. Questo prevede necessariamente che noi abbiamo anche la possibilità di controllare questa banca dati che ci riguarda, questa fotografia dettagliatissima sulla nostra vita privata. Quello che lei dice è chiarissimo ed è sicuramente molto interessante. A proposito di indagini che voi state facendo, così complessa, che riguarda tanti servizi, esiste solo nei confronti di Google o ci sono altre aziende che si comportano in questo modo? Diciamo, Google, noi abbiamo aperto una pratica su Google, ci sono più soggetti che si comportano probabilmente in questo modo, e quando sono soggetti europei noi sappiamo con certezza che debbono essere soggetti alla normativa europea. Ci sono alcuni soggetti localizzati al di fuori, stabiliti al di fuori dell'Unione Europea, ai quali chiediamo di rispettare questi che per noi sono diritti fondamentali, il diritto a controllare le proprie informazioni, a decidere a chi darla, a sapere che fine fanno, perché sono un pezzo importante di noi, è un diritto fondamentale per il diritto europeo, non è un diritto che può essere tralasciato, trascurato o violato solo perché un soggetto decide di trasferirsi fuori. Questo sarebbe un fatto gravissimo, perché porrebbe anche le nostre imprese in una posizione di svantaggio competitivo. Ci sarebbe chi è soggetto a regole particolari a tutela degli utenti e chi sfugge solo perché i suoi server sono fuori. È chiaro che questo è un fatto inaccettabile e noi insieme agli altri garanti europei stiamo lavorando per quello. Stiamo lavorando su due livelli, con indagini come queste nei confronti dei grandi che legittimamente offrono servizi che sono indubbiamente utili, ma che devono rispettare nell'agire, faccio i nomi di Facebook, dei grandi giganti del web che sono localizzati e hanno la loro sede al di fuori dell'Unione Europea e che offrono servizi a milioni di cittadini italiani ed europei e che devono rispettare i loro diritti al pari degli operatori che sono in Italia, sono stabiliti in Italia e che offrono servizi analoghi. Busia, rimanga con noi, adesso ci fermiamo per ascoltare le informazioni che arrivano da strade e autostrade, riprendiamo tra poco. 2024. Stiamo parlando di privacy e della decisione che è stata presa in Francia, ma una decisione che potrebbe essere presa anche in altri paesi. Oh, attenzione, in Francia non è stata data alcuna multa a Google, è stato solo diramato un avviso dicendo: occhio, se in 3 mesi non vi mettete in regola, noi potremmo fare un passo ulteriore. È con noi Giuseppe Busia, che è il segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali in Italia, una delle autorità indipendenti. Busia, se anche in Italia si arrivasse ad una decisione come quella che è stata presa in Francia, che cosa rischierebbe Google? Google rischia, da un lato il primo elemento sarà quello di avere chiarezza, 2 dare delle prescrizioni, 3 ove non ci sia conformità naturalmente anche delle sanzioni, ma credo che la sanzione più importante sia, e questa azione comune volutamente fatta in parallelo da tutte le autorità europee, in particolare da questa task force di stati che sono gli stati principali dell'Unione Europea, è una sanzione reputazionale. Noi stiamo lavorando e speriamo e crediamo e confidiamo sul fatto che Google lo capisca, perché la sanzione reputazionale che ci fosse ove Google volesse sottrarsi a questa, diciamo, a giocare ad armi pari con i nostri operatori, a rispettare i diritti degli utenti, il messaggio sarebbe la sfiducia degli utenti, e quindi credo che, e confidiamo sul fatto che Google voglio evitare questo, rinunci magari a qualche trattamento non troppo chiaro in nome di un servizio migliore, più rispettoso di coloro che usano i suoi servizi. Sì, molti si chiedono però se poi i consumatori arriveranno poi a questa decisione, cioè quella di sfiduciare un servizio di questo tipo. Infatti le faccio una domanda proprio sulla percezione di molti utenti nei confronti di questi servizi che, essendo gratuiti ed essendo molto comodi, spingono direi quasi tutti ad accettare qualsiasi condizione. Sfido chiunque a sapere se si è letto tutta l'informativa prima di schiacciare il tasto accetta. Da questo punto di vista, lei ritiene che, certo, in questo caso voi giustamente fate una indagine perché dovete applicare delle leggi e delle regole, ma forse da questo punto di vista le leggi che riguardano la privacy si dovranno forse allentare nei prossimi anni? Non allentare, dovrà crescere sicuramente la consapevolezza del pubblico nel capire che il dare tutti i propri dati, dati sulla navigazione, le conoscenze, farli raccogliere è un donare una ricchezza enorme. Lei parlava di servizi gratuiti, sono tutt'altro che gratuiti. Chi raccoglie i nostri dati fa business, vive di questi dati sono il patrimonio futuro, valgono più delle materie prime, valgono più del petrolio, dell'oro e via dicendo, si quotano a Wall Street, si quotano i dati perché sono un valore economico, quindi i servizi che noi che ci vendono come gratuiti sono in realtà non gratuiti, solo che la merce di scambio siamo noi stessi, dobbiamo averne consapevolezza e dobbiamo e non possiamo comunque disfarci del tutto di questo valore che siamo noi stessi, e questo lo si fa attraverso il diritto alla protezione dei dati, che è un diritto dinamico, si può accettare, lo si deve fare sapendo esattamente, con consapevolezza, si deve poter cambiare idea, si deve poter controllare che trattamento viene fatto. Noi non vogliamo chiudere Google. Vogliamo che i cittadini che lo usano abbiano quella consapevolezza che è l'arma vera che dobbiamo garantire. In modo semplice, perché è chiaro che se mi mettono davanti 18 pagine di informativa, io clicco sì perché voglio la mail o l'elenco o la fotografia. Quello che vogliamo è avere un bottone semplice, ad esempio, che mi dica non mi tracciare, che mi dica non mi localizzare, staccare la localizzazione. Vogliamo anche chiedere, salvo consenso specifico, dopo un certo tempo butta via i miei dati. Voglio essere libero da questa memoria che un giorno mi può ritornare, mi possono chiedere conto di dove sono stato, cosa ho fatto, con chi ho parlato a distanza di tempo, quando io non lo ricordo più, qualcuno l'ha ricordato per me, per ragioni commerciali o anche per altro, non lo sappiamo. Quindi aumentare e semplificare la gestione dei nostri dati personali. Le faccio un'ultima domanda. Sarebbe a suo giudizio auspicabile a questo punto avere un'unica autorità garante per la privacy europea che farebbe il lavoro una volta sola, ma avrebbe anche una forza forse maggiore? Il nuovo regolamento europeo che è in discussione, si conta di arrivare alla fine dell'approvazione all'inizio del prossimo anno, prevede da un lato una legge europea comune, un regolamento europeo quindi immediatamente applicabile. Seconda cosa, rafforza una cooperazione che esiste già, perché in molti casi, per esempio su Facebook, noi utilizziamo e chiediamo, siccome Facebook è stabilita uno stabilimento in Irlanda, i colleghi del garante irlandese per fare, per chiedere e per interloquire con Facebook. Questa forma di cooperazione sarà molto più radicata e strutturata, quindi è già previsto questo lavoro che già si fa, sarà più strutturato, e quello che oggi il gruppo dei garanti europei che si riunisce periodicamente a Bruxelles avrà più poteri e soprattutto potrà volta a volta delegare un'unica autorità per interloquire con le imprese multinazionali, con un vantaggio duplice. Per le imprese che avranno un unico interlocutore con il quale discutere in materia di privacy, e richiederà naturalmente da parte nostra uno sforzo maggiore di cooperazione fra noi. Quindi il garante non sarà unico in senso stretto, ma sostanzialmente stiamo già operando e sempre più opereremo in sintonia con gli altri paesi europei. Dottor Busia, grazie per essere stato con noi, la ringraziamo, buon lavoro, a presto. Grazie a lei. Sono le 16:24, questa è Radio 24, questa è 2024, ogni settimana ci domandiamo ai nostri esperti come la tecnologia ci cambia la vita. Sicuramente la disponibilità di Wi-Fi, quindi di connettività di internet in ambito pubblico, ci ha cambiato negli ultimi anni la vita e sicuramente ce la cambierà. C'è chi sostiene che dovremmo avere sempre più Wi-Fi in ambito pubblico anche nelle nostre città. Non c'è dubbio che sicuramente in alcuni luoghi, tipo gli alberghi, tipo gli uffici per gli ospiti magari dell'ufficio, tipo alcuni locali pubblici, il Wi-Fi a disposizione in modo gratuito è una grande opportunità. Sono meno convinto che lo sia in alcune zone di passaggio della città e soprattutto sono meno convinto che debba essere gratuito per molte ore. Mi sembra una buona soluzione quello di alcune città italiane ed europee che magari mettono a disposizione per una o due ore il Wi-Fi per far sì che magari un turista debba guardare la posta elettronica, eccetera eccetera. Se poi deve lavorare va in certi luoghi, tipo a Milano ci sono le biblioteche dove alcuni luoghi dove la connessione è garantita per un numero maggiore di ore, ma di questo magari discuteremo tra poco. Oggi vogliamo cercare di capire che cosa prevedono le ultime novità in tema di legislazione in Italia. Saluto l'avvocato Guido Scorza, bentornato a 2024. Buonasera, grazie per l'invito. L'avvocato Guido Scorza è sicuramente in quel gruppo di avvocati in Italia che si occupa da più tempo e con maggior assiduità e naturalmente competenza, se no non l'avremmo invitato a 2024, di internet, di politica dell'innovazione, eccetera, eccetera. Allora, c'è chi dice che il governo ha liberalizzato il Wi-Fi. Allora, come stanno le cose dopo aver letto questo decreto che è stato pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale? Bah, direi che forse il termine liberalizzato può anche essere corretto, è quello che ha usato il ministro Zanonato nel presentare il provvedimento, nel senso che in effetti sono stati alleggeriti gli adempimenti burocratici che secondo una certa interpretazione dovevano essere adempiuti dal gestore del bar, del ristorante, dell'esercizio commerciale che volesse condividere le risorse Wi-Fi. In particolare è stato abolito definitivamente, mettiamola così, l'obbligo per questi soggetti di richiedere l'autorizzazione al Ministero delle Comunicazioni piuttosto che quella al Questore, quindi quelle di cui al Codice delle Comunicazioni Elettroniche e quella residua della famosa legge Pisanu. In realtà secondo una certa interpretazione era già così, ma come dire, prendiamoci quello che c'è di buono in questa liberalizzazione, da oggi c'è sicuramente più chiarezza. Poi si è detto, lo ha detto il Ministro Zanonato in realtà, che era caduto anche ogni obbligo di identificazione, ecco invece su quel versante sembrerebbe che proprio nulla è cambiato, nel senso che le disposizioni del decreto, come anche ragionevole che sia, posto che non c'era nessuna norma ulteriore da abrogare, nulla dicono sugli obblighi di identificazione, si limitano a stabilire con una previsione tra l'altro un po' sibillina che resta fermo l'obbligo, che in realtà non esiste, del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento MAC address, ovviamente senza però ricondurre, diciamo, la macchina attraverso la quale ci si collega ad internet da un bar ad una persona fisica. Ecco, insomma, qui c'è da chiedersi a che serva sapere che un certo PC si è arrivati da qualche parte, se non si sa di chi era quel PC. Certo, poi magari ci arriviamo. Comunque, semplificando molto, allora, queste norme riguardano tutti coloro che non fanno della connessione, della connettività di internet il principale business, cioè che offrono questa connettività come servizio accessorio, ad esempio un hotel, un ristorante, un bar, una biblioteca, eccetera, eccetera, giusto? Questo è quello che dice il buon senso, anche se in effetti nel decreto c'è una prima norma piuttosto ambigua nella formulazione, che dice che l'offerta di accesso ad internet al pubblico è libera e non richiede l'identificazione personale, senza, come dire, porre nessun limite, nessun paletto. Ah, in generale quindi. Esatto, generalissima. Beh, quindi è soltanto il buon senso che porta a dire così non può essere, è impossibile che si sta pensando di dire a Telecom, a Vodafone e gli altri grandi operatori che possono fornire sì, perché hanno tutte, di accesso a internet. Certo, gli obblighi dell'operatore di telecomunicazioni in quel caso. Esatto. Quindi insomma, diciamo, interpretandola con un po' di buonsenso. Vabbè, diciamo, perfetto. Diciamo quindi che se io ho un bar, non posso tranquillamente, tra l'altro questa è una novità interessante, posso tranquillamente installare io da solo un access point wifi, perché prima del decreto la legge prevedeva che addirittura avessi dovuto obbligatoriamente chiamare un tecnico specializzato, giusto? Corretto, un anno e mezzo fa più o meno il governo allora Berlusconi in carica stabilì che serviva una impresa abilitata per l'installazione di modem e router all'interno di questo genere di reti. Oggi il decreto del governo chiarisce che viceversa si può fare da soli. Vabbè, questa quindi è una buona cosa, insomma, bisogna poi dire quando le cose sono fatte bene, sono buone, bisogna dirlo. Io sono quindi il bar, posso installare, prendo una mia bella DSL, un bel collegamento in fibra ottica dove esiste, adesso sapete, insomma, si stanno espandendo questi collegamenti, poi ci sono poi quelli che mi stanno ascoltando da zone ancora un po' poco raggiunte che mi scrivono e giustamente si lamentano del fatto che non ci sono i collegamenti, ma insomma questo è un altro capitolo. Io mi collego, prendo la mia DSL, posso installare il mio wifi e a quel punto ho altri obblighi o no? Lo diciamo però dopo la pubblicità. Vi ricordo che se volete fare una domanda o una vostra considerazione, il nostro numero verde è 800 24 00 24. 2024. Riprendiamo questa puntata, con noi l'avvocato Guido Scorza per parlare di queste novità annunciate una settimana fa, pubblicate in Gazzetta Ufficiale, ma ricordiamo, avvocato, che possono essere sempre modificate dal Parlamento, giusto? Stiamo parlando di un decreto legge. Stiamo parlando di un decreto legge, quindi ci sarà da aspettare la legge di conversione nei prossimi due mesi con eventuali emendamenti che potrebbero correggerne il tiro, probabilmente non sconvolgerlo, ma correggere sicuramente il tiro di queste disposizioni, questo è lecito attendersi. Sì, quindi diciamo che possiamo fare una puntata definitiva su questo tema fra un paio di mesi. Corretto. Esatto. Dunque, torniamo al nostro esempio. Io ho un bar. Decido di acquistare una DSL, di mettere un wifi e aprirlo pubblicamente. Mi sembra di aver capito che non devo più fare nessuna comunicazione a nessuna entità, non devo più, questo già succedeva, non dover più identificare, non c'è l'obbligo di identificazione degli utenti, non devo far più nulla, quindi sono tranquillo? Assolutamente, si può iniziare a condividere la risorsa di connettività, ovviamente ci sarebbe da buttare un occhio nel contratto che ci lega all'operatore che ci fornisce le risorse di connettività, che in ipotesi potrebbero essere fornite per un utilizzo soltanto privato, quindi per soddisfare le sue esigenze del gestore del bar o del ristorante e non per condividerlo anche con terzi, ma al netto di questo problema contrattuale si può, dicono le nuove norme, iniziare a condividerla con gli avventori e gli utenti del bar, del ristorante, dell'esercizio commerciale, salvo questa previsione appunto sibillina che dice a metà strada tra un si può e un si deve, resta fermo, ma appunto nella realtà per queste categorie di soggetti non esiste, ma insomma resta fermo l'obbligo di tracciare il MAC address e quindi il numero identificativo del dispositivo attraverso il quale gli utenti si connettono a internet utilizzando le risorse wifi messe a loro disposizione. Ecco, è una norma che probabilmente andrà raffinata in sede di conversione. Perché direi di sì. Sì, perché mi sembra, cioè, come dire, identifica il MAC address, è un indirizzo numerico che è associato ad una macchina. A parte che si può tranquillamente barare e far vedere al wifi un altro MAC address, c'è giustamente chi, facendo una battuta in questi giorni, ha detto adesso faccio una bella collezione di MAC address e me li uso tranquillamente. Però senza scendere in dettagli tecnici, quindi il gestore del bar qualcosa però lo deve fare, quindi deve avere un piccolo software che faccia questo. Sì, idealmente deve avere quel software che gestisce la distribuzione delle connessioni tra gli utenti che accedono alla propria rete e che poi vengono fatti accedere alla rete internet e conservare, ma anche qui brancoliamo nel buio per quanto tempo, in che forma, su un foglio Excel o annotati a matita questa somma di informazioni, che però dice non devono essere ricondotte alla identità degli utenti, che restano degli illustri sconosciuti. Esatto, quindi ci deve essere un elenco di numeri, diciamo così, che non servono praticamente a nulla. Sentiamo Alessandro che ci chiama dalla provincia di Ancona. Buongiorno Alessandro, benvenuto. Buon pomeriggio Paverini. Prego. Finalmente l'hanno fatto. Sì, finalmente l'hanno fatto. Sì, perché io, violando un po' qualche norma, un po' di tempo che lo faccio, ho acquistato un router Netgear che permette di registrare tutti gli indirizzi MAC che si collegano alla giornata e poi li invia in posta elettronica e quindi si possono conservare a tempo indefinito. Ah, lo fa automaticamente il router questo del tracciamento dei MAC? Guardi, ho impiegato la bellezza di 2 settimane per leggermi tutti i manuali utenti che ci sono dei router sul mercato, quelli che hanno dei costi accessibili per piccole imprese, ed è l'unico che permette una volta ogni ora di inviare tutto il registro delle connessioni in posta elettronica e poi uno lì la può conservare, la può scaricare, ci può fare quello che vuole. Sì, interessante. Alessandro, rimani con noi in linea perché è interessante la tua esperienza, come immagino ci siano molti bar che effettivamente hanno capito che è un servizio ulteriore, così come c'è il bagno, ci deve essere il wifi. Avvocato Scorza, rimane sempre una domanda di molti che è la seguente. In caso di illecito, chi è responsabile? Posto che io sono di quelli convinti che di illeciti ce ne dovrebbero essere molto pochi, perché se io sono un malintenzionato, un terrorista, ho ben altre modalità per fare dei pasticci. Non penso di andare nel bar di Alessandro a far combinare granché. Tuttavia, diciamo, in punta di diritto, chi è responsabile? Ma chi è responsabile non è certamente il gestore del bar, il responsabile per l'altruicondotta. Questo è il punto di principio. Poi è altrettanto evidente che siccome con il venir meno di ogni obbligo di identificazione è l'unico elemento certo per gli investigatori o per chiunque domani cercasse di accertare quelle che sono le responsabilità, resterà l'indirizzo IP che condurrà la polizia postale piuttosto che gli inquirenti, quali che essi siano, al gestore del bar o del ristorante. È altrettanto pacifico, dicevo, che questo soggetto rischia di trovarsi coinvolto in un'indagine, in un procedimento. Indagine o procedimento, quale che ne sia la ragione, dalla quale realisticamente il soggetto domani uscirà dicendo sì, la connessione a internet è partita da qui, ma dietro a quella macchina non c'ero io, ma uno qualsiasi dei miei utenti con i quali condivido le risorse di connettività, e utenti che per legge non sono neppure tenuto ad identificare. Quindi sostanzialmente questa è la strategia bella che è disegnata per chiunque voglia giustamente sottrarsi ad una responsabilità per una condotta telematica che non ha posto, che non ha posto in essere. Comunque possiamo dire che è ragionevole pensare che uno possa stare tranquillo. Sì, beh, direi che il fatto che non debba identificare a valle i propri utenti non si può dire che faccia aumentare le proprie responsabilità di fronte alla legge. Sì, sì. Alessandro, la gente poi usa o non usa il Wi-Fi? Perché questo è un altro punto interessante. Allora, il punto interessante è che non usa il Wi-Fi come magari c'è nell'immaginario collettivo. Cioè il cliente che entra con il computer portatile non esiste più. Quindi grossi illeciti che si possono fare col download di dati, ad esempio scaricando pirateria informatica, scaricando il film, scaricando la musica, eccetera, sono più difficili. Il 90% dei clienti che accedono lo utilizzano per servizi come WhatsApp, sì, Skype, sì, o comunque sia servizi di messaggeria, e spostandosi punto in punto, bar in bar, c'è anche questo discorso interessante, per cui poi può completamente fare a meno, per esempio, degli SMS. Certo, abbattendo il costo di gestione dei servizi, perché un utente che si sposta con un iPhone, con uno smartphone in generale, da un bar che ha un servizio messaggeria, una linea di Wi-Fi disponibile, a un ristorante, piuttosto che la piazza di un comune, eccetera, invia e riceve messaggi senza sostenere costi che sono tutti a carico del gestore della DSL. Sì. Lo faccio dire a te perché è migliore la testimonianza diretta di chi opera sul mercato. Perché hai messo il Wi-Fi? Cioè, quali vantaggi ti dà? Perché comunque quello per te è un costo. Ho messo il Wi-Fi? No, non è vero che è un costo, perché poi comunque sia permette di fidelizzare la clientela. Perché chi vuole andare su internet per vedere, che ne so, l'arrivo di Valentino Rossi su YouTube, piuttosto che un altro evento, comunicare, inviare una, il turista che deve inviare una mail al parente, piuttosto che la fotografia, eccetera, sicuramente, diciamo, il 50%, anche il 70% consuma. Giusto, certo. Quindi diventa un motivo di... Sì, sì. Il discorso diventa diverso quando poi dopo, se si dovesse estendere, come è successo per esempio in alcuni posti negli Stati Uniti, poi se diventa un problema di clienti che occupano i posti, che occupano volume, infatti, e non consumano. Esatto, infatti guarda. Però che, a quel punto poi a quel punto si provvederà limitando il numero di accessi. Ma infatti negli Stati Uniti ci sono tante leggende metropolitane che girano negli Stati Uniti. I punti dove c'è Wi-Fi gratuito, dove c'è Wi-Fi, sono tornati indietro. Bravissimo, esatto. Sono negli ultimi anni molto più difficile trovare reti aperte, eccetera, eccetera. Comunque, soprattutto i Blockbuster, eccetera, no, sono tornati indietro perché poi c'è Blockbuster è proprio fallita, però. Starbucks, tu volevi dire Starbucks. Esatto, Starbucks. Alessandro, ti ringrazio di aver chiamato. Sentiamo Fabio che ci chiama dalla provincia di Milano. Buongiorno Fabio. Ciao Enrico. Prego. Volevo chiedere al competentissimo avvocato, anche perché di questo argomento me ne occupo da tanti anni anche io, più che una domanda è una provocazione. Noi italiani vogliamo essere più realisti del re in questo caso. A voi viene in mente un paese più paranoico riguardo alla sicurezza degli Stati Uniti? A me non me ne viene in mente in questo momento. Io sono stato in diversi aeroporti degli Stati Uniti. vado a memoria, Philadelphia, Las Vegas, San Francisco, Denver, che hanno tutti istituito il Wi-Fi aperto, ma aperto veramente da anni, nel senso che compare una schermata e dice sì, sì. Il tal sponsor ti sta offrendo il collegamento, devi solo dire sì a accettare le nostre condizioni e potrai navigare gratuitamente. Ora negli Stati Uniti non sono mai scoppiati gli aeroporti, grazie a Dio, e non credo che succederà mai nel resto del mondo per un accesso a internet. Com'è possibile che in America da tanti anni è veramente aperto e noi ci stiamo arrivando e con tante difficoltà solo adesso? Sì, però ti faccio questa domanda. Guarda, girando per l'Europa, perché sugli Stati Uniti sono d'accordo, anche se è molto più limitata la disponibilità di quanto il comune dire, breve, insomma, di quanto si dice. Però in Europa le cose non sono proprio così aperte. Io sono stato in Francia questa settimana, ci sono non tantissimi wifi aperti, e tutti quelli che ho trovato aperti in giro per la città di Parigi o nelle zone limitrofe, nelle campagne limitrofe, prevedono la registrazione. Quindi non darei, tuttavia la domanda è ottima, la giriamo a Guido Scorza dopo la viabilità. 2024. Stiamo parlando del Wi-Fi libero e gratuito, molto spesso gratuito, e comunque delle nuove norme che liberalizzano questa connessione in Italia. Io penso, rispondendo anche ad alcuni ascoltatori che dicevano: ma perché lei Pagliarini dice che non deve essere gratuito per tante ore? Allora, in ambito pubblico, in un bar, in un ristorante, in un albergo, eccetera, eccetera, dove paga un privato, giustamente il privato può dire: io investo in questa tecnologia perché per me è un servizio ulteriore che io do ai miei clienti. Quando entra in ballo la pubblica amministrazione, io penso che ci debbano essere dei limiti, soprattutto di tempo e anche di monte traffico, cosa che puntualmente avviene in quasi tutte le reti. Io conosco quella di Milano, e a Milano appunto ci sono dei limiti, perché altrimenti la pubblica amministrazione entra in conflitto con chi nel mercato opera e offre questi servizi a pagamento. Io sono dell'idea che l'acqua, la corrente elettrica, il gas devono essere estesi e messi a disposizione del più elevato numero possibile di persone, ma così come quei servizi si pagano, anche internet deve essere diffuso e messo a disposizione con buone connettività, e io spero che la pubblica amministrazione investa per estendere questo servizio, ma questo servizio deve pagare, perché non è giusto che lo paghi la collettività, ognuno deve pagare il suo pezzetto. Poi ci sono momenti e situazioni in cui ci può essere o un privato o anche la pubblica amministrazione che offre questa alternativa. Nelle città, ad esempio, penso soprattutto ai turisti che hanno devono essere messi in condizioni di navigare per non pagare il roaming. L'avvocato Scorza, rispondiamo a Fabio che diceva: se non hanno la paranoia gli americani, perché la dobbiamo avere noi? Poi magari anche su questo aggiungo una cosa. Ma io temo che sia un fatto essenzialmente di cultura e di scarso alfabetismo digitale, nel senso che insomma lo si vede perfettamente in quest'ultimo decreto in cui al grido liberalizziamo il wifi, in realtà in buona parte è già bello che è liberalizzato da oltre un anno, comunque il legislatore sembra non essere capace di sganciarsi completamente dal bordo della piscina e nuotare libero, perché poi ha l'esigenza di aggiungere quella disposizione che sostanzialmente è incomprensibile e certamente inutile, per cui dice resta fermo l'obbligo di tracciare il MAC address, che appunto che è inutile, che è sostanzialmente inutile senza l'identità della persona. Quindi penso che in realtà stiamo discutendo semplicemente di una parola, di una paura recondita di ciò che non si conosce, internet in questo caso, e tutto sommato si ritiene sempre cosa è buona e giusta richiedere forme di identificazione per quanto inutili, piuttosto che dire agli utenti andate, utilizzate internet, perché tanto sappiamo che grossi danni non potete farne, e che se anche volete farne non vi siederete certamente ad un bar nel centro di una città a farli. Sì, ci sono tanti sistemi molto facili, ma molto facili, per bucare il wifi del vicino di casa. Dunque, dimmi se sei d'accordo con questa mia affermazione. Io penso che la necessità di registrare un utente che utilizza un hotspot wifi pubblico, che sia all'interno di un aeroporto, un albergo, il bar, eccetera, eccetera, o in una piazza, sia di fatto poi in definitiva una scocciatura facilmente superabile. E faccio riferimento alle ultime tecnologie che vengono utilizzate da molti esercenti che utilizzano la SIM, cioè il numero di telefono per identificarci. Io penso che in quel caso sia così semplice, ci sono modalità molto semplici e ultimamente ci sono anche operatori e tecnologie che permettono di registrare in maniera automatica, quindi senza che noi ce ne accorgiamo, il nostro terminale utilizzando la SIM. Mi hanno detto, ne parleremo poi in futuro, che anche iOS 7, il nuovo sistema operativo di Apple che potremo utilizzare dal prossimo autunno, ha un protocollo che va proprio in questa direzione, cioè permettere la registrazione su un hotspot Wi-Fi tramite la SIM. In quel modo, visto che con la SIM ci siamo registrati con carta d'identità, eccetera, eccetera, può essere una soluzione. Io penso che questo stia accadendo in molti paesi europei dove non è vero che c'è così tanto Wi-Fi libero, e pian pianino succederà anche negli Stati Uniti, perché lo si può fare in maniera molto semplice e veloce, quindi senza una grande scocciatura, ma nello stesso tempo ci permette di controllare in caso di illecito. Esagero? No, io lo condivido perfettamente, sono assolutamente convinto che forme di identificazione light degli utenti, e questa della SIM è un buon compromesso tra robustezza della identificazione, visto il quadro normativo vigente che impone agli operatori di telecomunicazione l'identificazione forte dei soggetti a cui attribuiscono una SIM, e semplicità di uso. Sono abbastanza convinto che questo sia uno scenario utile da tenere presente, e non dimentichiamoci mai che il fatto che la legge non mi imponga più di identificare i miei utenti non significa che io, per finalità difensive, per stare più tranquillo da gestore del bar, non possa comunque scegliere di utilizzare queste forme di identificazione light, e così facendo, quando mai la polizia delle telecomunicazioni dovesse bussare alla mia porta per dire: dal tuo bar è partita una connessione verso non so quale sito attraverso il quale si commettevano degli orribili reati quel giorno a quell'ora, poter tirare fuori i miei file di log e dire: sì, in effetti però in quel momento avevo condiviso la risorsa di connettività. Per non avere tranquillità. Questo è sicuramente uno scenario, non voglio dire auspicabile, ma è uno scenario che rientra nelle scelte del singolo. Magari gli si semplifica semplicemente la vita e lo si fa stare più tranquillo. È ovvio che in questo caso sarà il gestore del bar a doversi preoccupare di rendere trasparente all'utente ed acquisire il relativo consenso sotto il profilo della privacy, dicendogli: ti sto identificando, non sono tenuto per legge, ma ti sto identificando. Sì. Comunque esistono tante società che offrono questo servizio in maniera molto, molto semplice. Certo, effettivamente è un costo aggiuntivo, però è comunque una possibilità interessante. Comunque non ci vedo questo grande problema se io devo inserire. Certo, se mi devo registrare, andare all'ufficio del comune, ecco, quella effettivamente è una scocciatura e non ha senso, ma ricevere un SMS oppure con altri sistemi, ma ne riparleremo. L'ultima domanda, Angelo da Bologna, buongiorno. Buongiorno. Prego. Enrico, complimentissimi. Però abbiamo un minuto, i complimenti li facciamo un'altra volta. Sarò velocissimo. Allora, due considerazioni, una sul discorso della connessione a tempo. Sono d'accordo anch'io, come nei bar c'è, non so, il bagno, va benissimo se io ho una necessità, però se lo occupo tutto il giorno, forse non è molto perfetto, interessante, giusto, per tutti gli altri. Giusto. Ecco. E l'altro discorso, quello della mentalità americana, va bene la leggenda metropolitana, visto anche le ultime cose che sono venute fuori, io credo che anche se mi registro in una rete aperta, i sistemi siano tali per cui dopo 30 secondi sono già vita, morte, miracoli di me. E comunque la mia domanda era un'altra, cioè dovendo consigliare un esercente che vuole dare questo servizio ai suoi clienti, forse in virtù di queste cose sibilline, di cose che possono venire fuori in futuro eccetera, potrebbe essere il caso di dirgli: guarda, è meglio avere un dispositivo che ti permette certe diciamo caratteristiche di raccolta di dati, perché comunque ti mettono al sicuro da problemi di qualunque tipo. Sì, come ha fatto il nostro amico Alessandro che ci ha telefonato, che ha un router che automaticamente raccoglie i MAC address, che così lo mettono al riparo, non so da cosa, ma comunque rispetto alla legge attuale di sicuro. Angelo, io faccio una promessa a te e anche agli altri ascoltatori: sicuramente ce ne rioccupiamo. Quindi magari mandami un'email per ricordarmelo e magari per ribadire anche la tua domanda. Io ti saluto, saluto anche l'avvocato Guido Scorza per essere stato con noi, visto che abbiamo pochi secondi, andiamo verso la fine. A presto avvocato, a risentirci. Grazie, a presto. Noi dobbiamo chiudere in 10 secondi, grazie a Roberto Scaltritti che si è occupato della parte tecnica, grazie anche a Benedetta Acri e Anita Panizza. Ci sentiamo sabato prossimo. 2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. 2024. Un programma condotto da Enrico Pagliarini, sabato alle 15.30, disponibile su radio24.it. 2024.